Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Se ne parla da anni in Italia, ma neanche a dirlo si fa veramente poco. Tant'è vero che va di moda usare il termine inglese corrispondente, social housing, forse anche perché case popolari nel nostro paese è stato raramente sinonimo di grande qualità. Però se ne discute molto, se ne discute un po' in tutto il mondo, dove c'è un ritorno alla concentrazione urbana, ormai più della metà della popolazione umana, che peraltro in continuo aumento, vive già nelle città, e questo tema del ritorno alla città si mescola con il tema fortissimo e molto contemporaneo dell'efficienza energetica degli edifici. Anche in Italia, come vedremo, dove l'edilizia popolare appunto è ferma da anni, c'è però del fermento, e quindi al social housing ha pensato bene di dedicare il numero dello scorso dicembre Archetipo, che è la rivista di architettura del Sole 24 Ore, e abbiamo qui come ospite in studio Donatella Bollani. Ciao Donatella. Ciao. Allora Donatella, cosa sta succedendo? C'è questa inversione di tendenza? Possiamo dire che il modello della periferia estesa, quello americano ma anche quello padano, no? Per usare un termine che va molto di moda, si è rivelato un po' una fregatura. Sì, non parlerei di fregatura, ma forse perché sono molto vicino al tema della progettazione e della costruzione. Le residenze a basso costo degli anni 70-80 sono state un campo sperimentale di tecnologie costruttive estremamente evolute per quegli anni. Quindi il risultato forse in termini urbani non è stato poi, come dire, risolutivo di una questione che era quella di dare un'identità. Ecco, a una parte di città, ma è stato diciamo una scuola per moltissimi progettisti. Ecco, comunque oggi questo tema sta tornando alla ribalta, ci sono moltissime iniziative e volte ecco a definire delle best practice in questo settore, perché bisogna appunto rifare quell'esercizio di cui tu ci parlavi, ma aggiornandolo alle necessità e ai problemi di oggi, tra cui quello dell'efficienza energetica. Quali sono, come dire, i risultati pratici? I risultati pratici sono che ci confermano, ma questo lo sapevamo, l'idea che si può assolutamente coniugare una buona architettura con un edificio, comunque con un patrimonio edilizio ad alte performance energetiche, e che risponde ugualmente a una necessità tipologica nuova. E ci sono dei template praticamente. Come funziona questa? Io posso citare due casi, uno soprattutto che voglio dire ci riguarda vicino, ed è il concorso, un bando europeo che è stato sostenuto dall'assessorato allo sviluppo territoriale del Comune di Milano, Assimpre di Lance, Ordine degli Architetti, INARC, Sezione Lombardia, Federlegno Arredo, mi piace citarli. È un bando europeo che si concluderà con la consegna degli elaborati il 30 maggio. Ha questo obiettivo, quello di creare un repertorio di progetti per edifici residenziali a basso costo e alte prestazioni. Non vogliono essere dei modelli chiusi, ma un set di soluzioni che appunto arrivano a definire in dettaglio la possibilità di replicare una soluzione progettuale a basso costo e alte prestazioni energetiche. Ecco, addirittura si prende in considerazione tutto, diciamo, dal cantiere all'involucro dell'edificio fino addirittura all'arredamento. Che il valore è proprio questo, di arrivare a un progetto definitivo in cui tutti gli aspetti sono verificati, quindi il costo, le performance, anche le soluzioni interne d'arredo. Ci sono stati istituiti due abachi nei quali rientreranno le proposte di un mondo della produzione che dovrà, come dire, attenersi a quelli che sono i vincoli del bando. Potranno partecipare, hanno partecipato, perché le iscrizioni sono chiuse a gennaio, imprese e progettisti in partnership. E la cosa interessante, se ho capito bene, è che per esempio un architetto che riceve una commessa può utilizzare questi template, poi, come dire, aggiustandoseli in qualche modo, facendo le modifiche che ritiene, ma sa che in questo modo rispetta dei canoni anche energetici e quant'altro. Diciamo che la verifica è già stata fatta dalla giuria che verificherà, diciamo, l'attendibilità delle informazioni che sono state conferite attraverso gli elaborati di progetto. È un repertorio che potrà essere utilizzato da tutti, quindi dalle pubbliche amministrazioni, dalle imprese e anche dai progettisti. Che cosa vuol dire per un architetto partecipare a questo concorso, invece mandare il proprio progetto e vederselo magari inserito lì? È una cosa che un giovane architetto può sperare di fare, per esempio, o tentare di fare? Sì, assolutamente. Chiaramente, come dicevo, si aveva la possibilità di partecipare in partnership con un'impresa e quindi portare un patrimonio di esperienza esperienza è molto ampio. In Lombardia c'è un discreto fermento su questo tema. Io volevo citare un altro episodio che farà tornare tutti gli operatori del settore sul tema delle residenze a basso costo, che è l'EIRE, si terrà a giugno a Milano, è la fiera del Expo Italia Real Estate, quindi certo, diciamo degli investitori immobiliari, e il secondo anno che la fiera pone uno spazio, un'esibizione di social housing, chiamando tutti gli operatori a esprimersi attraverso le loro opere e i loro progetti. Il tema interessante di quest'anno è che era deciso di sostenere un monitoraggio permanente di progetti, quindi dai primi giorni del prossimo mese di marzo, online sul sito della fiera, che mi permetto di citare, che è www.italiarealestate.it, sarà possibile vedere, non dico in tempo reale, ma insomma in pochissimi giorni, pubblicati i progetti che stanno prendendo forma, i cantieri che si stanno aprendo in Italia sul tema del social housing. Del social housing. Grazie Donatella Bollani. Grazie a voi. Una considerazione in chiusura: un piano, un rilancio su vasta scala dell'edilizia popolare sarebbe intanto l'opportunità per fare uno scatto in avanti all'efficienza del comparto residenziale, non si vede altrimenti come potrebbe ciò accadere, e dall'altro è l'occasione giusta per formare tutte le maestranze, per far sì che a tutti i livelli della catena produttiva si diffondano le buone pratiche, le conoscenze che riguardano appunto questa edilizia di nuova generazione altamente efficiente. Questo è tutto, l'appuntamento per domani sera. Buona serata.